Chi è? Fatti andare in culo, Sono la Pasqua. Tutto. Vedi, c'è anche la musica di fondo, cosa vuoi più? Buttateci tutto, ciao Marco. Ehi, ciao già, sono di passaggio. Sentivo bip, fischiare e poi la musichetta. Però sto facendo altro, dai, magari più tardi. Ciao a tutti. Anche io sono di passaggio. Che donna che ha perso Rugani? Sta chiamando il cane. Ciao Marco, dai, anche io di passaggio. Oh, almeno ho dimenticato la portante schiacciata. Buonasera, ragazzi. Buonasera, un par di ciuffoli, come diceva qualcuno. Ciao genio. Ci abbiamo gente che chiama il cane, musichette, jukebox varie e fischi e fiaschi. Io ho messo i mitici Abba, non ha giù un frizzo. Oh, no, sono acceso adesso, sono di passaggio, non mi trattengo che devo mettere un po' di ordine qua, che cazzo pari fare un magazzino tutto quanto incasinato, dai, casomai rientro dopo. Già, va bene, già siamo qua, se non riesco molto. Andare, dai, anche oggi è una bella giornata, dai, quindi la motoretta già ci sta. Ciao Virginia, buonasera. Buonasera, chi è? Mario Polo Torres. Oh, ciao Mario, buonasera. E allora, come va? Tutto ok, dai. Non c'è male, non possiamo lamentarci. Che c'è la tua ovviamente. Quella è l'importante, quella è l'unica sola cosa importante. E allora, come mai in queste basse frequenze? E perché no? Non bisogna mai e poi mai non ricordarsi del passato, andiamo a scherzare. Io sono nato il 27, quindi non è un problema per me, è un problema il fatto che comunque trasmetto con le antenne che sono adatte, quindi sono un po', questo sì, e sembra anche poca gente, quindi io di solito sento più nessuno. Scendo in tivolino qua e quindi insomma purtroppo prendo quello che prendo. Bene, siamo sempre qui comunque. Allora di nuovo, vai. Non stai più usando l'antenna, stai usando il dipolo. Hai sempre il problema del QRM alto? Sì, purtroppo sì. Non solo, ma anche di rumori strani, va tutto intorno, una cosa che è una impressione. Ho parlato ma anche con la terra cipino, non è un casino, non fa, purtroppo. O quindi niente. Ma poi radio, io ci sono poco, anche in altre bande non è che è brutto. Assolutamente, c'ho altre cose da fare, poi vabbè, sono quasi sempre in giro, quindi in giro vado un po' a camminare, ma quindi ho poco tempo, molto poco tempo, sinceramente. Vabbè, mi piace insomma avere tutte le mie attrezzature qua che mi fanno anche compagnia. Sì, ma io ogni tanto ti vedo in giro. Ogni tanto ti vedo in giro a camminare. No, qua su 10 c'è un po' rivitalizzato un po' il tutto, vai. Siamo una decina di persone, forse c'è anche qualcuno nuovo. Ma io poi non vado di qua, anche perché quando vado non c'è mai nessuno, quindi insomma è difficile, poi divento io. E dopo qui da Sassari mi arrivano molto molto bassi, quindi cerco di evitarmi, tanto per un saluto io potrei invitare, capito? Ma non sempre vedo nessuno, allora ti saluto. Ma almeno se si arriva una strada di più, so che siamo fatto a poco potenza dal Wenner, purtroppo. Questi anch'io siamo ragazzi, la miseria. Vabbè, allora ci siamo aiutati tra poco, anche facendo delle cose qua al computer, quindi ho molto piacere, spazzolavo un po' per i cani e ti ho sentito, quindi ho saluto Vito. arrivato un tempo che non lo sei. Mario, fa sempre piacere. Studiaci, guarda, trovi gente da quest'ora, qualcuno trovi sempre. Magari non riesci a sentirlo, ecco, quello e gli altri magari non ci sentono. Però qualcuno lo trovi sempre, più o meno. Ok? Ho più legato che con la segnale di 6, quindi se lo prendo. Prima della sera siamo andati a 27, che sono arrivati al 9, 9, 10, perciò non avevo problemi. E anche chiaramente, questo diventa sempre difficile sentire. Vabbè, mi era questo controllo da quando ho detto, non ne voglia, della Cucurbice Plus. Siamo in grado di perdonarti, saluto anche quelli che eventualmente mi stanno guardando qua sotto, gli ascoltoni e gli ascoltelle. Ciao Mario! Piacere contraccambiato a 380, dai, ogni tanto lo fate sentire, che è sempre bello. Ciao, ci sentiamo, buona serata. un ciuppe di me adesso non mai più. Sulle frequenze di 27.075 Revival 8090. Thank you. E che musica, altro che autotune, oh mamma! Sono molto esposto, praticamente sono a faccia a mare, prendo di tutti i colori. Ci pensi, sono i mini. Vabbè, comunque la ho piazzato l'altra antenna ha resistito agli uragani questi giorni. Ho capito, e cosa hai messo adesso come antenna? La nuova tornado. Ho capito. Con i radiali eccetera, no? Ci sono i radiali lì. Esattamente. Prega. Dovrebbe reggere un po' di più, suppongo, perlomeno, credo che regga di più. Break! Avanti, break. Buonasera a tutti, ciao Giulio, l'ho portato il tempo. Buonasera a tutti, ciao Giulio, la nuova tornata, ecco, con la Mantova 5, è uguale a te. Ah, la Mantova 5 è buona, la Mantova 5 è buona, non c'è che dire. Ciao Gianni, me l'ho ascoltato dopo un sacco di tempo, io accendo, però non c'è mai nessuno, dunque, infatti anche adesso sono più di mezz'ora acceso qua e non sentivo niente, sentivo solo musica. Ero io che stavo mettendo la musica, quella si chiama l'ora di Radio B2, Porto Torres, sulle frequenze 27.075, cambio! Giulio, noi ci siamo tutti i giorni, anzi ci sono anche rotte grosse, abbastanza grandi, ci siamo tutti i giorni, dopo le 6:30 se tu accendi ci siamo tutti i giorni. Break. Registrato il break. Il fatto che a quell'ora io sono impossibilitato perché devo fare delle cure, per cui devo rispettare gli orari e no, non è facile per me, dai. Diciamo che non è facile. Avanti il break. Buonasera Giulio, buonasera Gianni, buonasera Eugenio, buonasera Carlo da Quetta che vi saluta. Ben sentito Giulio. Riprendi pure Giulio. Ok, ciao Carlo, ben ascoltato. Infatti l'ultima volta che ci siamo sentiti in realtà un mese fa, però eravamo di mattina. Va bene, dai, mi fa piacere comunque di ascoltarti. Come dicevo, l'orario della sera non è che mi è molto conveniente, perché ho delle tabelle di terapia da rispettare, per cui non è sempre che posso accendere, capisci? Avanti, c'è Eugenio, che vai Eugenio? Ciao Gianni, ciao Carlo. Oh Gianni, ascolti sempre bene, sì? Sì, perché? No, perché Giulio non mi capiva, non so. Santiago Nova Radio 5, sì, qua. Buonasera anche Carlo. No, non è che non ti capivo, Eugenio, eri troppo forte, forse hai abbassato un po' la voce, non lo so, cioè le parole non arrivavano scandite in maniera molto chiara, era solo, ma adesso ti sento bene, avanti Carlo. Sì, Eugenio, sempre solito segnale da me, capito, io ovviamente ho l'antenna piccola ancora, non ho messo l'altra, però già ti sento, ti capisco, qua mi arrivi sul 7 con picchi positivi, radio 4 comprensibilissima, ma la mia è una situazione un po' così, ho l'antenna sul balcone, capito, però Giulio lo stesso mi sta arrivando 9, radio 5, e ciao Gianni, riprendi pure Gianni. Ma Giulio lo sento un po' giù di corda, però si è raffreddato. No, diciamo che è un pochino di abbassamento di voce, per cui, e poi è la vecchiaia già, la vecchiaia è quella. La vecchiaia, non si vicino. E i vecchi camminano col baccolino. Già, non so comincio, ma fra un po', fra 2 mesi ne ho 84, ti puoi immaginare, per cui mi dovete sopportare così. E ci vogliono anche le persone che hanno l'esperienza e frequenza, no? Esperienza già ne ho fatta tanta, 54 anni di frequenza e ci sono ancora, grazie a Dio, per cui non è che mi lamento per quello, da 72 a 2026, 54 anni, sono tanti, però io lo auguro a tantissime persone che hanno la passione per la radio di starci così tanti anni come ci sono io. Avanti oggi. Carlo, modula un po' che devo registrare lo squelch. Ehi, mi senti Giulio? Già mi stai arrivando, vedi un po', sicuramente ti arriverò 5, 6, non lo so, dimmi tu. Vabbè, dai, regolato. tu mi arrivi molto basso, a 2, 3, così, molto basso, però ti ascolto, dai. Sicuramente con la boomerang non è che posso fare i miracoli, anzi che riesco a parlare con Porto Torres, Alghero, Ittiri, capito? E insomma, è tutto Sassari, dai, già mi sta bene. Un po' sono coperto verso Sorso che non riesco a parlarci, ma non sono l'unico, capito? Adesso spero dalle prossime settimane di poter migliorare un altro po'. Addirittura tu parli con Ittiri, a me Ittiri non mi ascolta. Sono copertissimo per Ittiri. Più per 10 anni. E magari per te è una zona negativa, capito? Carlo, essendo in alto, riesce a beccare un po' tutti, perché è zona alta e si vede tutto da lì. È zona via Pulizzetta, quindi ti puoi immaginare, è zona bella alta. Giulio, che ci racconti di bello? Niente di particolare, già, cosa posso raccontare? Che grazie a Dio la salute già sta funzionando bene, in questi ultimi giorni ho fatto tante di quelle visite che tu non hai idea, tutti a pagamento, a colpo di 300 euro quasi, perché ormai la sanità ormai non te ne dà più di possibilità di avere, non riesci a prendere appuntamento, per cui sono costretto per fare le solite visite che io devo fare ancora per qualche anno, suppongo, devo pagarle tutte. L'ultimo che ho fatto per l'esattezza 278 euro, un attacco, quella è una, poi la cistoscopia 270 euro, poi visite oculistiche, insomma tante altre 200 euro, insomma tante cose già. La pensione di un mese è partita per le visite. Non dovrebbe succedere, non ne hai esenzioni? Esenzioni io ce li ho, però non trovi appuntamento già. Se il tuo appuntamento ce l'hai fra 2 anni, come fai? Tu la visita la devi fare, non è che puoi trattenerti 2 anni per fare un controllo. La mia situazione purtroppo mi richiede delle visite frequenti o quasi, per cui non posso trattenermi. Avere l'appuntamento dopo 2 anni e mezzo come posso avere tramite CUP. È un casino, è un bel casino. Stiamo andando peggiorando, nella sanità sta andando sempre peggio. Purtroppo chi non era ha deciso di non curarsi più perché non ce la fa. Purtroppo è così, io grazie a Dio da quel lato lì posso considerare fortunato, cioè nella sfortuna della malattia che grazie a Dio sembra che l'ho superata almeno già da 6 anni, però ripeto, i medici mi consigliano di fare sempre almeno ogni 6 mesi un controllino per stare tranquillo, per la prevenzione più che altro, è tutto lì. Ma non vi voglio annoiare con questa storia, perché tanto lo sappiamo, la sanità ormai è difficile per tutti. Vai oggi. Ma che è successo? Oggi è sparito. Ciao, ripeti tu. Sì, Giulio, già ti stavo ascoltando e non ti preoccupare, dai, importante piano piano, come si dice, è sempre a me, capito? E niente, mi fa piacere sempre risentirti, capito? Quindi poi acciacchi ne abbiamo tutti, chi più e chi meno, capito? L'età poi sta passando per tutti, non è che va avanti solo a te, capito? Anche noi andiamo avanti. Tu ne hai 54 di passione della radio, eccetera, di anni, ma noi non è che siamo molto da meno, capito? Certo, dietro di te sicuramente, ma non ti preoccupare, quando vuoi entrare ci fa piacere. Qualche volta anche di mattina qualcuno entra a modulare, dai. Piano piano si sta riprendendo un pochettino questo canale. Niente, già entra anche qualcuno da fuori, ho visto, e sta Pompei, anche se io non lo sento, spero di sentirlo nelle prossime settimane, se dovesse rientrare da Sorso. Adesso vediamo un po'. Riprendi Eugenio, vediamo se sei rientrato. Sì, sì, sono qua, mi sono dovuto allontanare un secondino. Riprendi Gianni. Io non ne sarei entrato anche lui, qualcuno nuovo è entrato, vai. Certo, anche un amico che modulava tanti anni fa da Via d'Italia, Luca, e poi qualcuno ogni tanto entra, adesso adesso deve entrare uno da Ottava, mi pare, che sta piazzando l'antenna, qualcuno sta entrando anche nuovo. Sì, già, Luca l'ho sentito già due volte, no, di mattina però, quasi all'ora di pranzo, verso intorno a mezzanotte, mezzogiorno e mezzo l'ho sentito, per cui lo so che sì, è vero. No, ma devo dire che quest'anno, nonostante l'assenza dei CB a Sassa, io mi sono divertito alla grande, veramente. Mi sembra che l'avevo già detto anche in frequenza. Da gennaio a ottobre ho fatto tanti di quei collegamenti in tutta Europa e anche Sud America, parte della Sud America alla grande, proprio facendo parte di questo gruppo della Sicilia, Whisky Mike, che credo che faccia parte anche Carlo. Carlo, tu fai parte della Whisky Mike della Sicilia? Confermo, 165, Whisky Mike 150, Radio Club, Whisky Mike Marsala, Giulio, è già da un paio d'anni, anche io ne ho fatto diversi, capito? Anche in queste condizioni, qualche settimana fa, ho collegato Canarie, Inghilterra e Scozia. Sì, ma io anche la settimana scorsa al Brasile, così di mattina ho acceso intorno a mezzogiorno e mezzo, l'una meno 20, una cosa del genere, ed è capitato 277 del Brasile, un certo Antonino, che l'ho sentito più volte, non è solo una volta, l'ho sentito già diverse volte. Lo so, però purtroppo in Sardegna adesso propagazione non ce n'è, mentre ancora nella parte bassa dell'Italia, Sicilia, Puglia, eccetera, eccetera, c'è ancora propagazione, perché io li sento dalla chat, no? Li ricevo tutti i messaggi dalla chat del gruppo, tu lo sai benissimo, no? Io ho 120, e Whisky Mike 120, oh Carlo, e questo è il mio, da gennaio faccio parte di quel gruppo, mi hanno sentito, mi hanno proposto, va bene, per me va bene, così, è stato un piacere, perché mi sono divertito tutta l'estate oggi, Carlo, riprendi ancora tu. Sì, io di tanto in tanto così vado su quelle frequenze lì in banda laterale, e diciamo qualche collegamento anche io divertente già l'ho fatto, più che altro curioso, perché insomma riesci ad arrivare lontano quando c'è un po' di propagazione. Bene, dai, mi fa piacere che insomma la radio un po' ti appassiona sempre, e le nuove esperienze sono sempre ben accette. Vai Gianni, riprendi tu. Gianni ci sei? Gianni si è sentato un attimo. Avanti Eugenio. Sì, si è salutato un attimo. Buongiorno Stefano. Si è salutato un attimo Gianni. Ma Carlo, perché tu hai la patente del radioamatore, no? Puoi ripetere, Eugi? Ho detto, tu hai la patente del radioamatore? No, è un'iscrizione, un radio club questo, capito? Un'iscrizione che si fa e basta. Ah, ok, ho capito. Riprendi da qua, da Giulio. Ok, no, è un gruppo internazionale, in tutto il mondo, questo qui è un gruppo diciamo che esiste da roba dei 50 anni più o meno, 45-50 anni, ma è per tutto il mondo, ma chiunque può entrare, non c'è problema, basta che uno lo desideri, anch'io posso farti entrare, per dire, se io do il numero di telefono per dire l'amministratore del gruppo, lui non fa altro che iscriverti al gruppo, poi tu riceverai tutte le chat del gruppo stesso, allora, nello stesso tempo ti fa anche la QSL personale, che poi tu la puoi spedire quando te la richiedono, te la manda tramite WhatsApp, oppure se uno è bravo al computer abbiamo anche una piattaforma o web, abbiamo, ma io il computer non lo uso, per cui non me ne frega niente, ma c'è anche questo, per chi è interessato c'è anche questo. Vai ancora, ho capito, e vabbè, no, per il momento non è una cosa che mi interessa. Comunque, buona sapere, se non mai un domani. Ok, tutto grazie, se non fai niente, assolutamente, non devi niente, sai cosa vuol dire? Niente, anzi non devi fare niente, devi solo dare il tuo numero telefonico, basta. Poi da quel preciso istante, dopo che lui ti ha fatto l'iscrizione, te lo fa in giornata, massimo l'indomani, già ricevi direttamente tutte le chat di tutto il mondo, o di chi li manda, chi li mette, appunto, puoi capire come funziona l'andamento, non c'è problema. Va bene, avanti, Carlo, ancora due passaggi, poi devo andare a fare terapia, dai. Sì, Giulio, ho provato anche io io sono iscritto lì da quando ero nell'altra casa, e poi è che avevo fatto uno stacco di buono un anno e quindi non ero più rientrato, se non che le scorse settimane, capito? E piano piano mi sto riorganizzando tutto qua e adesso ho anche un'altra radio nuova dalla quale sto modulando, capito? Il 140 Kenwood, e ce l'ho da poche settimane, quindi insomma piano piano e ogni tanto si aggiunge un piccolo pezzo. Carlo, no, io non ce l'ho più il Kenwood, io l'avevo venduto, l'avevo venduto, guasto com'era, e poi chi l'ha comprato ce l'ha aggiustato subito in giornata stessa, per cui sta sempre funzionando, so che sta sempre funzionando bene, ma non mi interessava più, per cui non l'avevo già riparato tre volte, io la quarta volta non l'ho voluto riparare, anzi qualcuno mi aveva anche aiutato, tipo, tanto per fare un nome, l'amico Fabrizio è stato gentilissimo due volte, me l'ha aggiustato in maniera perfetta, funzionava alla grande, però purtroppo era una radio troppo vecchia e non ha resistito più di tanto, ecco, però mi aveva fatto veramente un gran bel lavoro. Bene, poi un'altra volta l'avevo spedito tramite l'amico Claudio, che lui si era interessato di tutto, sempre gentile con me è stato, per cui lo ringrazio ancora una volta, ma adesso non ce l'ho più, per cui non mi interessa più il Kenwood. Dai, ho questo omologato e basta, tutto lì. Vai, oggi. Ah, quindi hai solo un apparecchio omologato, niente più HF, diciamo, niente più Kenwood. E mi ricordo che tu ce l'avevi il Kenwood. Il Kenwood per andare bene con un Riaesu, un Licom, insomma è più, perché la Kenwood non c'è più come apparato. Certo, ormai la Kenwood intanto credo che non produca più niente, e poi era una radio che ormai aveva già ormai 35 anni, perciò prima o poi doveva arrivare anche la fine, anzi devo dire che sta funzionando ancora, perché chi l'ha comprato se l'ha riparato personalmente lui e sta sempre funzionando, non niente di particolare, però non lo usa mai, dai, lo tiene solo in ascolto e basta, però so che funziona bene, non c'è problema. Bene, signori, io vi ringrazio per le quattro chiacchiere, ma adesso purtroppo devo mollare, purtroppo l'ora è arrivata, anzi sono leggermente in ritardo, esattamente di 5 minuti, buoni, per cui vi saluto e vi ringrazio per questo, sperando di riascoltarci molto presto. Ciao Carlo, salutoni, mi ha fatto piacere di ascoltarti, anche a te, Eugenio e Gianni Sessi. sei ancora all'ascolto. Salutoni a tutti, ascolto il finalino e dopodiché stand by, chiusura per me. Ok, vai Carlo. Ciao Giulio, buona serata, dai, ci sentiamo, speriamo presto. Quando entri non ti preoccupare, ci fa e mi fa piacere, capito? Vai Eugenio. E lui è giù. Vai tranquillo, vai, noi già ci sentiamo a breve, non ci può fare. Ciao, buona serata, diciamo, va? Ciao, ciao Giulio, buona serata, dai, buona carica quando la fai, a risentirci. Ok, ciao Gianni, ciao, saluto già a tutti, saluto ancora una volta, è stato un piacere per me fare quattro chiacchiere. Comunque per la cronaca sto andando con tre vatte solamente, per cui uno monovatto. Ciao a tutti, chiudo, vai Gianni. K915 con un vatto, stai arrivando, ciao Giulio, ci sentiamo, dai, buone cose. Avanti Carlo. Sì, Giulio ogni tanto, dai, lo sentiamo. Io già l'avevo sentito anche una ventina di giorni fa, forse, forse era di mattina o di primo pomeriggio, adesso non ricordo. Già entra ogni tanto, Giulio. La passione per la radio c'è sempre, meglio così, dai. Niente, prima ti stavamo chiamando già, forse ti eri sforzato. Sono andato in bagno. Sono andato in bagno un secondo, dai. Quindi vi ho ascoltato, non ho voluto entrare in brutto. Ho aspettato che mi rilanciavate. Oh, ragazzi, mi devo sentare 10 minuti, dai. Ci sentiamo fra 10 minuti. Che mi hanno chiamato un attimino. E oggi non c'è problema. Non è entrato nessun altro oggi, Carlo. No, io guarda, sono entrato poco fa, ho sentito Eugenio con Giulio e poi sei entrato subito tu, capito? Io ho acceso qualche istante prima, capito? Basta, poi non ho sentito nessun altro. E poco fa stavo parlando con Mario di Produttore, se lo ricordi, non hai sentito, però sta modulando con un dipolo. Sente bassissimi quelli di Sassari, addirittura vicino a me, diciamo, in linea d'aria, e arrivo Santiago, sì, da lui. Ma chi? Mario Montelva? Mario? Montelva. Non lo so, Mario di Bologna. Ho capito chi è, dai, ho capito. No, pensavo che fosse Montelva, quello che modulava dalla zona di campagna, dopo la zona industriale. No, ho mai sentito. Vabbè, mentre anche Coso, come si chiama, quello Claudio Del Faro, diciamo. Vabbè, ci sentiamo fra a breve, dai, ciao. Calma, calma. No, ma l'ha piazzata l'antenna? Non lo so. No, pensavo che l'avessi sentito. Avanti, calma. Sì, io non, se arriva ad Eugenio da Porto Torres, Eugenio gli arriva a 6 qua, non, io non l'ho sentito, capito, quindi questo Mario, in passato mi sembra di ricordare che c'era Mario e anche Claudio di Porto Torres che entravano ogni tanto, però prima già li sentivo con l'altra antenna e adesso è un miracolo che sento Eugenio, io gli arrivo basso 3-4 di Santiago, Radio 3, però già mi capisce Eugenio, capito, è già qualcosa. Sì, c'era anche uno che modulava dalla macchina, un ragazzo che aveva la stazione del padre che non c'era più, e c'aveva l'apparecchio in macchina anche, modulava dalla macchina, c'aveva un Opel Astra che pare Station Wagon. Buonasera a tutti, interrompo un attimo l'ascolto perché sto seguendo la cosa un attimo e ci sentiamo dopo. Ciao a tutti. Ciao Claudio, mi sentite anche a te. Ciao Claudio, buonasera, già siamo qua. C'è anche Eugenio che riprenderà tra una decina di minuti, prima c'era Giulio, ci sentiamo più tardi Claudio, vai Gianni. Vabbè. Beh, buon curioso Claudio, dai, quando vuoi rientra. Io tra poco dovrò andare perché qua sta rompendo, ci sono le cagne in calore. E non è che sta piangendo perché deve scendere a fare i bisogni, no? Perché ci sono le cagne. Non importa, ormai c'è quella trombata. Non voglio le padrone, io se ce n'è una che come si avvicina lo vuole addentare, come l'odora si gira subito questa qua. È una zittella. Una zittella. Ma accompagnato mio figlio sta rientrando adesso, che sta partendo, sta andando fuori, faccio un giretto, visto che ha travagato tutto regno, e vabbè, è così, e quindi stavo, si stava con la macchina fuori, stavo mettendo praticamente la guancia, come mi ha fatto io, mi stanno chiamando dall'altra parte, un attimo solo, avanti Carlo. Allora questa decisione per l'antenna l'abbiamo presa. Ma cosa non ero? Poi una faccia e poi una sotto, lo santo di gatto ha fatto, vai Pasquali. Ma che li senti questi? Però sono americani. Oh, sono rientrato, Claudio, c'è qualcuno che ha detto lo santo di gatto ha fatto, cosa non ero, una cosa del genere. Oh Gianni, sì, appena un attimo di tempo, quella la tiro più, capito? Non lo so se riesco questa settimana oppure rinvio tutto all'altra, che ho un po' di ferie e una settimana, e quindi se migliora il tempo, che non c'è vento e non piove, penso di impiegare un'oretta e sistemo tutto, levo quella che c'è, provo quella lì, capito? Sicuramente ci guadagnerò, capito, sia in ricezione che in trasmissione. Adesso è tutto trovare l'attimo giusto. Davvero, avanti, oh, c'è questo, come si è fatto chiaro, il Corsaro Nero vuole a Claudio Sfarviero fuori. Attenzione, Corsaro Nero. E invece anche dalle mie parti, perché arriva un casino forte. Io l'ho riconosciuto chi è. A me non mi butto. Io lo conosco, vabbè. Comunque va. Se vuole entrare entra, se no la mazza gli invadia. Ciao. Lo conosci. Avanti in casa. Comunque ho visto che il tempo e le giornate, diciamo, si stanno allungando, dai, cosa molto positiva. Io odio l'inverno perché fa buio presto, capito? E quindi poco fa, adesso ho abbassato la tapparella perché ormai ha fatto buio, però alle 6:30, 7:20 un filino di luce c'è ancora. Secondo me a fine mese, a fine di questo mese arriviamo alle 7 a fare buio. Io amo l'estate perché mi guardo tutti gli spettacoli, cantanti, concerti, di tutto e di più. Amo per quello l'estate, perché la notte me ne posso uscire. Quando uno ha, insomma, uno svago fuori, eviti di stare dentro casa. Sì, il tempo buono ti spinge a uscire di più, anche io spesso me ne vado anche, diciamo, al centro in bicicletta, sabato e domenica che c'è pochissimo traffico, quando non lavoro, capito? La domenica mattina solitamente dopo che faccio colazione mi metto la tuta, il caschetto, capito, il giubbotto antivento di quelli ad alta visibilità, e me ne vado in giro, capito? L'ultima domenica del mese in Piazza d'Italia c'è il mercatino, così, delle cose antiche, mi faccio un giro lì, poi scendo dappertutto, faccio via l'Italia, scendo alle Conce, salgo dal centro storico, me ne salgo in Piazza dei Segni, mi giro tutta la città, capito, in un'ora, ora e mezza, salgo da via Napoli, capito, e c'ho la bici con la pedalata assistita. Quando non faccio quello, Gianni, mi prendo la macchina, scendo a Platamona, capito, e mi faccio una bella passeggiata in riva al mare, ma mi faccio anche chilometri, capito, poi torno indietro, tra andare e tornare lo stesso mi faccio una camminata. Prima andavo anche allo stagno di Platamona quando c'era il percorso con tutti i ponticelli, poi l'hanno un po' abbandonato, adesso è rimasto un piccolo tratto solo che si può visitare, capito? Se no anche lì era bello farti la camminata. Già anche io d'estate esco sempre, a te il microfono già. Io ci andavo quando ero piccolo alla sede di Platamona con una busta in plastica, ci mettevo il pane e prendevo i pesciolini gli avvalotti, quelli piccolini, e me li mettevo nell'acquario invece di comprarli i pesci, me li mettevo nell'acquario, capito? per le buche pesciolini piccoli che ci sono. E poi vabbè, il mercantino di Piazza d'Italia ci andavo sempre perché compravo gli schiubini lì, compravo il long play. E io lo stesso, così mi piace curiosare, capito, vedere cose di tanti anni fa, che ho tanti ricordi, capito. Non è che compro tante cose antiche, capito, però mi piace vederle, sì, poi se trovo, che ne so, un qualche vinile così in buono stato, eccetera, anche io quello l'ho preso, qualcosina, giusto per tenerlo, qualche cantante che mi piaceva, tipo Lucio Battisti, di quando ero ragazzo, capito? E insomma, qualcosina si trova sempre lì, vecchie radio trovi, di quelle a valvole di tanti anni fa, con i tastoni grandi, quelli bianchi, color avorio, insomma, già, a volte già interessante. Anche ad Alghero lo fanno, a volte ad Alghero anche più diciamo più sentito, e un sacco di gente ci va pure. Oh, scusate, piano, cazzo, piano con la portante, mamma mia. Ciao ragazzi, io sono Cellemotto, a fare un giro, ci sentiamo, ciao, a domani. Ciao, ciao oggi, ci sentiamo, buon giro. Ciao Eugenio, buona serata, dai, ci sentiamo alle prossime. Diciamo che ad Alghero c'è anche tipo Portobello, così, un mercatino così, l'avevo visto una volta. Sì, sì, esatto, sì, no, qui vabbè, Alghero a me piace quando ci vai, non a luglio, ad agosto, quando ci vai nelle belle giornate, che ti fai una passeggiata al centro storico, ti mangi un gelato, ti prendi un caffè, capito? Se sei in compagnia, capito, ti fai, insomma, una bella passeggiata, è piacevole. Quando poi c'è la calca estiva di turisti, di gente in giro, non trovi parcheggio, fai fatica anche a camminare, allora non è più piacevole Alghero, da quel punto di vista è così. Sì Carlo, è vero, io odio per questo motivo andare a Alghero d'estate, perché non si trova parcheggio, manco pagato, è un casino. Una volta siamo stati più di mezz'ora, poi ce ne siamo ritrovati a Sassari perché non c'erano parcheggi. Abbiamo girato al centro, città, fuori mano anche della passeggiata, nei vicoli, niente da fare. Non c'era un parcheggio, manco a pagare. Beh, Ciccio! Ciao Emanuele, ben sentito. Buonasera a tutti, Non so se ti ascolta, c'è Carlo. Avanti Carlo. Sì che lo ascolto, buonasera Emanuele, ben sentito, facendo quattro chiacchiere con Gianni, c'era Eugenio ma è andato via che doveva uscire. Ciao Carlo, anche a te buona serata. Ma dov'è? In casa mai Carlo? Io sono in via Prunizzetta, capito? In via Prunizzetta all'inizio, vicino a Marco. Andare, ho capito, andare. Vai già. Vabbè, perché eravamo tutti due con l'antenino, non sapevo se vi sentivate. E invece è interessante sentirsi sempre, no? E beh, poi non ci sei venuto, cazzo, a prenderti quella ruccia. Ma di volte sono passato anche l'altro giorno, sono andato a prendermi le buste al comune, sono passato e c'era ancora la ruccia, delle pietre di stintino ci sono, sicuramente qualcuno che ha svuotato l'acquario e le ha appoggiate tutte nell'aiuola dell'albero. No, non ci sono passato perché non sono uscito da nessuna parte già, sono un po' che non esco e quindi non mi sentivo neanche bene. E dove me ne metto? Che è già pieno dentro l'acquario, quindi capo lo mi ripongo. Le pietre di stintino te le puoi fare a capanna e si fanno lettame, le puoi fare a capanna, sono ben belle quelle pietre di stintino, non le puoi più prendere, se ti trovano sono cacchi, però ci sono ancora, ho visto che l'hanno svuotata, hanno messo anche il quel legno di Tormela, ce l'ha presente quello marrone, quello del rame. Sì, sicuramente qualche uno che ha buttato l'acqua e se l'ha fatta di chi. È una roba nuova, roba bella, capito? Se ci sta da te, la voce è un po' grandetta e lunga, dai. Da me sì ci sta, però io ce l'ho già pieno, non voglio mettere altro. E anche il mio è pieno, io mi cazzo me ne pongo. Quella era stata bella per un altro acquario, assemblarlo. Perché da me è pieno lo stesso, mi me ne pongo. Ma se è pieno, E a Vanucci, la scena te ne sta. Sì, ma ne siamo nati, sì, sette. Ma secondo me c'è qualche bastardo che si è sta mangiando. Perché non bisogna metterle mai tante razze, bisogna sapere, quelli che vanno d'accordo. Se tu vedi tante razze, poi trovi sempre quello che si rimangia. Invece se tu c'hai solo per dire l'imbistis, per dire qualche pulitore, non ti ritoccano, capito? Continuano a campare, si nascondono nelle brocche, le cose, e diventano grandi. Io l'ho trovato addirittura anche nei filtri, vivi. Ma io ho visto che secondo me sono quei neo che mi sono rimasti, due dei neo, secondo me sono quei bastardi lì che ci rimangono. No, perché i neo ce li ho, eppure non li toccano, io ce li ho i neo, però non campano molto i neo, non campano poco. E ancora viraggio, cazzo è un anno il viraggio. Ma quanti ne hai? Noi ne sono rimasti. Te ne sono rimasti, quindi gli altri sono morti. Scusa, cade il ping pong, avanti. Sì, mi riprendo, ma chiudo perché sta passando mio figlio che mi ha mandato un messaggio e quindi poi se no mi viene male. Dai, vi saluto adesso, ce la risentiamo, se ci siete ancora più tardi magari rientro un altro pochettino. Ciao Gianni, ciao Manuele, chiunque sia in ascolto, ascolto il finale, dai, lascio acceso, poi se ci siete già rientro. Ciao Carlo, adesso chiudo anche io perché Tesla mi sta chiamando, dai. Ero a completa, l'ho portato giù un po' perché devo buttarci anche la mondezza, sempre mi sembra un cacchio di mondezza, mamma mia. Va bene Gianni, buona passeggiata, sì, l'ho sentito il cane che ti chiama, dai, ci sentiamo più tardi se va bene, se no alle prossime. Ciao Manuele! Ciao Manuele, ci sentiamo. Come siamo messi, come la situazione? Giorno in giorno si è trombati. Già va bene, a te si attorda. Briciola, su che andiamo? Su.